fiamma mia, stasera o mare chiama. Sotto stelle, la luna canta insieme. Nessuno sa, ne suona, non si inganna. Quando la vita fa una rima con il tempo, ci dirà mamma mia, sta musica in paradiso. Come rosa che sboccia da maggio, ci dirà, o cuore si è scettato. Insieme a te, o mondo pare non un viaggio. Una barca bassa, l'acqua scede o silenzio, o vento parla, le parole so più dolce. Se tu guardi, o cielo so fa un scienzio, perché il cuore tuo tiene una voce. E la notte canta, canta e cosa nasciuta, ogni sonda è nuova se c'è rasa. Gira mamma mia, sta musica in paradiso, come rose che sboccia a maggio. Gira, mo cuore si è scettato, insieme a te o mondo pare un viaggio. Una notte canta, canta e cosa nasciuta, ogni suono è nuova se c'è rasa. Già vite lo spettacolo, sto palco è un regalo, che luce stella, il mare ci ha chiamato. E mentre canta notte a musica è un cavallo, che corre forte in coppa libertà. Gini la mamma mia, sta musica in paradiso, come rosa che sboccia da maggio. Ci dirò, o cuore si è scettato, insieme a te, o mondo pare, nu viaggio.